Claudio. Chi è? Il Grotte. Dimmi un po', ciao, buona sera. Aspetta, ti abbasso questa sì, crepatura qua. Pronto, Anton? Ok, stai arrivando la bomba qua. Ti sto abbassando un pochettino. Che antenna stai usando, sempre fuori? Che radio sto usando? 294. 294? 294 come mio, con la base in it. Vabbè, te lo posso dire attraverso bassa, ma non ho problemi, te lo dico anche qua. Quest'estate, l'estate scorsa, avevamo fatto un lavoro per cui avevo dovuto acquistare una cinquantina di queste ricetrasmittenti Baofeng 888S, cioè BF888S, e ne ho 50. E quindi stai vendendo? E K, se senti qualcuno che se le sto dando proprio a sacco baratto, proprio perché me ne devo liberare, ne ho 50, dammi in voce. Avevamo fatto un servizio e mi erano servite per quelle, adesso me ne devo liberare. Se sento qualcosa, bisogna che metti qualcosa su qualche sito, anche perché non sta comprando più niente nessuno. No, ma infatti, ti ripeto, non ho urgenza, soltanto che me le ritrovo in una cassetta, me ne terrò una decina, ma 50 non me ne posso nutrire. 50 puoi fare, poi tu possa essere a parlare con chi ti dici. Oh, se sento qualcosa, io ne ho tre, non sono cinesi, sono seri, e più uno ne ho di scorta, e uno l'ho anche regalato. Quindi li ho portati, lo sai che ne uso più, io le basi, le stazioni veicolari, eccetera. Queste erano endecametriche, 16 canali, ci avevano dato una frequenza, avevo richiesto una frequenza, ce l'avevano data come frequenza di lavoro, li avevo dati i vigili urbani, Barracelli, ecco, erano per calici di stelle lì a seno, hai capito? E però alla fine poi quando le ho ritirate, cosa me ne faccio? Si possono rifrequenziare, cioè hanno un programma per metterli di nuovo in frequenza sui canali PMR o LPD. Come sentiamo qualcosa dalla voce e poi ti faccio sapere. Gappa, non c'è nessuno? No, io ho schiacciato così a vedere se c'era qualcuno. Sto qui mettendo sempre a posto, c'è un armadio anch'io pieno di roba, sto dando tutto quello che non mi serve, ne ho già venduto parecchie. UHF basi, UHF, HF, veicolari, microfoni, balle. Quindi sto continuando a svuotare perché non ne fai niente, non ti lavare gli armadi pieni di roba quando non serve assolutamente a nulla. Ah, ma guarda che ti avevo messo da parte quelle cose, quel microfono. Vediamo, ci vediamo anche. Io sai che sono libero di mattina, di pomeriggio, di sera, tutte le ore, non ne ho problemi, basta mi dai un colpo di telefono, ti raggiungo e me lo dai. Ah, ok. Scusami che finisco di fare una cosa e sono qua, sono in ascolto comunque. Ehi, anch'io sono qua, però dopo. No, dimmi. Sì, c'è un rumore di alternata, fortissimo, la radio non ce n'è. L'originale riuscire bene, no? L'originale era perfetto, ti ho già fatto in TV. Quindi c'è qualcosa che non va. No, non ci siamo. Spostati al 40. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Hola. Hola. Dica. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Qualcuno c'è, dica. Buonasera, dai, un controllo di Santiago per cortesia, me lo dai, che il vento mi ha fatto cappottare l'ante. Ma stai arrivando a bomba, sia di radio che di Santiago, sei 9:20. Di più. KK, dove sei tu? In via Roffella. Antonio, tu sei? Kappa. Mi ha piegato l'antenna al vento, volevo sapere se stavo uscendo ancora. Allora, sei lì adesso di abitazione, ti sei trasferito? No, sempre qua. Lasciala così l'antenna e allora ti sta facendo la direttiva, giommai stai uscendo molto meglio. No. La devo addirittura prima che mi va al prossimo vento, devo mettere qualche rinforzo, ma è solo piegata, non è rotta, dai. Magari ci vuole un rinforzo. Magari, però stai uscendo benissimo. Tu sei bacino, tu, ma non c'hai l'antenna, è vero che ferro, scusa. No, l'ho tirata giù, adesso c'è un'antennina interna. più capite. Ma poi scusa, sono in QRX che sto settando delle ricetrasmittenti. Anzi, poi ti dico, ti mando un WhatsApp, dovrei avere il tuo numero di telefono. Ehi, Anto. E ti mando un WhatsApp dopo, capito? Ma te la ripeti la stazione lì? Sto vedendo se riesco a guadagnarmi un po' di spazio, piano piano, con le unghie e con i denti. Capito, avanti, clac. Hola. Stazionare nemmeno 1-1 so, di brutto, chiave gheme. Boh, non c'è nessuno, non c'è più nessuno qua. Alto, riprendi. Ora, 1, 2, 3, prova. Aspetta, sono in QRX che sto settando la radio, ti riprendo dopo. Eia, K, cambia, non c'è problema. Che avanti. Chi è? Sei avanti? Stai uscendo malissimo del radio, a tromba c'hai. Alto, vabbè. Stai uscendo malissimo, No, non ero io, no. L'ho sentito anch'io, ma non ero io. Ah, no, sto settando delle radioline un attimino. Ti richiamo io fra un attimo. Ehi, alla cara che stai usando adesso? Sembra un mussoggio, ma vedendo. Bassa. No, è bassa la radio, e non è un coso, è uno di quegli vecchi, vintage, un Inuit questo qua. Oh, yeah. L'antenna sul tetto, ma l'hai tolta quella che c'era? Tappa Roggero. Bene, se l'avessi lasciata, hai avuto fretta, negava tutto, vabbè. E dove l'hai messa? Ha buttato via? No, data a un amico, cioè se l'è presa un amico. Ah, vedi, Adesso ti dovrà comprare l'antenna, tu, adesso devi fare. Chi c'è qua? Ci sono mi. Cosa? Ci sono mi, io e Antonio Grode. E io sono da prendere il lavoro. Ma già a posto. Sì, sta stazionare sono tranquille, normalissime, sempre uno, massimo 1-1. Sì, signora, c'è un po' lo stesso. Scappa. Sicuramente c'è da mettere un rinforzo, ho già trovato un tubo io in casa, di plastica, e ci vorrà del polietilene espanso, lo devo comprare. E vabbè, mi fa le cose affrettate, assicurati prima che cos'è e cosa non è, e poi si vedrà. Dai, vi saluto, ci sentiamo la porta uscendo. E domani adesso la scendiamo con Luca. Vabbè. Rimango sempre in quello che ho detto, costo elevatissimo, costruzione vero. Ma vabbè, adesso oramai c'è, si rivede, dai, vai a prendere l'aria, poi siamo qua, dai, non c'è problema, avanti Grodino. Ehi, ciao Cla, ci sentiamo dopo, e rimango in quel Rix un attimo. Ehi, Antonio, no, adesso siamo sentiti poco fa con Antonio, poi ti faccio una bassa ancora, vedere se ti è rimasto una cosa che mi serve. Parte quella roba là. Ci sentiamo dopo per bassa, sto uscendo, ciao a tutti. Ciao, ciao. Avanti, chi c'è sul 10? Hola. C'è qualcuno sul 10, cambio? Attenzione 10, c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Proprio nessuno. Assolutamente nessuno. Chi era che ha chiamato Gianfra? Io so. Okay. Ciao a tutti e due, io oggi mi sono fatto il mazzo in cucina, quindi stavo facendo roba fino a poco fa, quindi sono stanco, adesso inizio a mangiare, quindi ritenetevi salutati, rimango solo in Quarissi, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao, sempre che la facendo stai. Poi non puoi entrare così dicendo che hai cucinato e noi non sappiamo che cosa, che maniera? No, non ho cucinato io, diciamo che stavo mettendo rimedio al campo di battaglia che fa mamma ogni volta che cucina, capito? Schizzi sulle pareti, sul soffitto, di olio, di sale, tutto, un campo di battaglia. Manda la quella, come si chiama, cuochi, cucine, com'era? Cucine da incubo, è come la nostra, capito? Oh, yeah, vabbè dai, stamattina presto al commercialista, insomma, da stamattina che sto un po' quanto indietro, io non sono abituato, io sono abituato a poltrire, quindi per me è uno shock una giornata come questa. Riprendete, ecco Rix per me, dai, vai Gianni. Ciao Gianfra. Ciao Gianni, ben ascoltato. Marco, una segnalazione ti volevo dare. Su Replay c'è una cosa che potrebbe interessare, non so se l'hai già vista magari, è una specie di telefilm con un paio di puntate, 10 puntate, si intitola Stalk, quindi è uno stalker praticamente, guardatelo, che tanto Replay ce l'hanno tutti, quindi non devi neanche fare grandi cose. Allora, Rai Play, serie TV Stalk, ok, ma Rai Play è a pagamento o libera, non mi ricordo. Gratis, tutto gratis, guardi quello che non ha visto, io ho trovato quello per caso, l'ho guardato, è molto interessante, parla di accessi ai telefonini, eccetera, è tutto corretto quello che danno, solo l'unico sbaglio che fanno sono sulle telecamere dei telefonini che ovviamente se non sono puntate non è che puoi riprendere a 360 gradi, ecco, tutto lì. Quello è l'unico errore che hanno fatto, però ovviamente si capisce il perché. Ok, non mancherò, dai, ti do un'occhiatina. Ma tanto anche se era a pagamento la piratiamo, che problema c'è? Vai Gianni. Che cosa sono questi programmi? Fanno vedere programmi già dati oppure in diretta? No, no, dunque, questo onestamente non lo so se l'hanno dato in diretta. Sembrerebbe un'esclusiva di Replay. Sono dei, come si possono chiamare, dei telefilm, dai, una specie di telefilm. Parla di una scuola di alta professionalità informatica, e questo ragazzo ne fa di cotte e di crude, molte cose si possono effettivamente fare e altre cose insomma sono un po' immaginate, proprio per quello che riguarda perlomeno la visione di altri telefoni. Comunque guarda, è abbastanza carino come cosa, e dà anche un po' di istruzione a coloro che pensano che sono sempre al sicuro, e non è così. Gianfra, il segnale è sempre lo stesso il mio, Sì, sempre lo stesso. Cosa ti è successo? Scommetto che si è piegata l'antenna come minimo. Sì. Cosa l'hai agganciata da qualche parte? Tubo rigido, cos'è? Cosa? Cosa è successo? Tubo troppo rigido o che cosa? No, io ho la Game Master, non il rigido. L'antenna è stata piazzata bene tutto quanto, però probabilmente ci volevano dei rinforzi tra un elemento e l'altro, capito? Perché io sono proprio di fronte al mare e lo prendo bene il mare, proprio frontale. Io invece ho un amplificatore qua vicino che si chiama Teoro, che prende da lì e scende con una violenza inaudita, quindi figurati che me ne ha portato via un pezzo di tetto anche. L'antenna però non è mai successo niente, tieni presente che io ho anche una, insomma, ne ho antenne, quasi tutte tra l'altro sul principio della Game Master, perché ne ho 4, tra poco forse 5, di fatte con quel sistema in vetrosesina, che secondo me è l'ideale. E le antenne, guarda, è riuscita anche a piegarmi tubi d'almine, e ti ho detto tutto, perché uno me l'ha fatto storto, però l'antenna è sempre rimasta dove era. Eppure è stata piazzata bene la mia, cazzo, manco vulcanizzante abbiamo avuto problemi a mettere, senza nessun coso di spreco, l'abbiamo proprio vulcanizzata alla grande. Infatti adesso da smontare sarà un casino. Ma io non ci ho messo niente, nessun tipo di vulcanizzante, solo un adesivo normale, di quello buono ovviamente, e basta. E ho visto, anzi questa che sto usando adesso, vediamo un po', sta stazionaria perfetta, niente di particolare. È abbattuto, cioè no, ne ho visto di ben altra specie di venti. Era forte, però non era niente di eccezionale, ecco. E tu pensa che anche gli aerei stavano volando, quindi è detto tutto, mentre invece ha sopportato anche il blocco degli aeroporti, quell'antenna lì. Mandava delle raffiche allucinanti qua dove sono io, mandava delle raffiche che facevano piegare l'antenna quasi a toccare a terra, cazzo. Alla fine deve essere, non ce l'ha fatta più. Perché qua è diverso, qua è aperto. Ieri figurati che stava arrivando da Alghero. Alghero questa cosa, da Alghero proprio forse. Ora viceversa, andava verso Alghero. Non forse andava verso Alghero il vento. Ed era, non so se fosse greccale o cosa di avere. Però niente, mi ha proprio strapazzato di brutto le due che c'ho in alto. Quella lì lo stesso l'ha strapazzata, anche quella che era a terra l'ha strapazzato, però ripeto, non era eccezionale, cioè ho visto di molto peggio, perché stavo controllando un po' gli aeroporti e i voli c'era anche l'elicottero in giro, quindi figurati. Mentre invece quando c'erano quei venti veramente forti, anche l'aeroporto era chiuso, un paio d'ore ma l'hanno chiuso. Invece in questi giorni era un vento forte ma non eccezionale. C'era turbolenza molto in alto, cioè in alto dico a 2000-3000 metri. Vabbè, sarò io sfigato dove dirigi. È probabile. Tieni presente che da me i tubi oscillano, non sono rigidi, pur essendo molto robusti, però oltre a muovere l'antenna, muovere anche il tubo, perché in caso contrario anche il tubo potrebbe essere visto, perché siccome sono molto alti i miei tubi, una parte di traliccio, l'altra parte di tubo, che è molto alto, e quindi se lo tiranti se lo prende con le parti intermedie, già lo sai il principio, per evitare tutto quello lì dovresti mettere i tiranti ogni tot di metri, però è un casino, capito, ce ne vogliono tantissimi. E poi magari se lo prende con l'antenna, che giustamente è un retrovisore. Insomma, capita, ecco. Ne capita di tutti i colori. No, il tubo è tirantato, è stato bello fermo, il tubo non c'ha nulla. È l'antenna che sicuramente non ha retto, si è spaccata dove c'è l'attacco fluzzo, o non è stata entrata bene, probabilmente è entrata, è stata entrata meno delle altre, quel coso lì a me, non ha retto, oppure è proprio il vento che l'ha spaccata, boh, cosa ne so. Qualche motivo ci sarà, però in ogni caso partite, boh. Gianni, ma danno ti ha fatto il vento? Sì, mi ha piegato l'antenna, Marco. Ma piegato nel senso definitivo, cioè te l'ha inclinata? Il cavolo, ma perché tu sei molto esposto, caspita. Però, cioè, i materiali sembrano fatti apposta per flettere il più possibile, ma... 160 km orari, dice. Il cavolo. Guarda, io l'altra notte, quando voi dormivate sicuramente, non stanotte, l'altra notte, sentivo in strada questi colpi, tipo i colpi alle serrande che danno i ragazzini, no? Sentivo boom, boom, ma chi è? Invece erano le raffiche di vento che arrivavano di botto violentemente, cioè non vento costante, ma raffiche improvvise, e davano i colpi alle serrande e sentivo un rumoraccio. E io macello il vento per le antenne. Dai, io sto mangiando, riprendete. Vai Gianfranco. E vabbè. Morto un papà se ne fa un altro, diceva quello. Adesso lo vedo se si fa aggiustare, se no la cambio, buonanotte. Però non so cosa mettere, boh. Ma stazionario sta installando? O è rimasto tutto uguale? Tutto uguale, ne vengo uno e uno, cioè di stazionario. Adesso sto parlando con 10 watt e non c'ho manco uno e uno di stazionario. Allora non è successo niente all'antenna, magari è... ma se sta cattato poi c'è proprio, com'era, adesso non me la ricordo più, l'attacco, se è come quello delle altre VHS. Com'era, si infilava in un tubo, perché non me lo ricordo. Allora, il primo piantone non c'è nulla, l'attacco che c'è dal primo al secondo piantone lì c'è piegata. Comunque è parte dell'antenna, non è questione di tubo, cioè ti voglio dire, è dal PL verso l'alto questa piegatura, non è sotto, ecco, quindi la parte di tubo che può essere anche in alluminio, eccetera. No, è sopra. Te l'ho detto, il primo pezzo non ha fatto cazzo nulla. Ma io me ne sono accorto perché il primo pezzo non fletteva nulla, fletteva solo quella parte lì. Probabilmente è entrata poco, magari è solo da entrare un po' di più e basta e non succede niente. È strano, in effetti è strano perché si dovrebbe spaccare quando il vento è talmente forte che supera le specifiche, di norma si spezza, no? Si spezza e anche col venticello poi ovviamente contenendo solo un pezzo di filo praticamente si piega e la vedi subito, cioè non è che spieghi, proprio si accartuccia l'antenna, mentre invece quella linea in ogni caso è in piedi, quindi sembrerebbe che si sia lesionata qualcosa o sganciata. Oh Gianfra, ce ne prendete più dove c'è il centro carni? Sì. Di fronte, guarda, c'è un palo di quelli grossi, in vetroresina, spezzato dalla base. Sì, vabbè, quello non ha significato, perché tutta quella roba, pali elettrici, eccetera, per quello che riguarda la manutenzione, anzi io mi meraviglio sempre che reggano quelli di Porto Torres, che sono tutti rugginosi. Infatti quando ci passo sotto ci sta attento. E di lì spesso è questione di manutenzione, quindi purtroppo al giorno d'oggi se ne fregano un pochino, quindi quello non è da considerare. È strano, la devi togliere giù, tanto leggera, tanto di un attimino, secondo quello che c'ha, ci metti due pezzi di plastica, anche quelli tipo tubo dell'acqua, no? Però di quello molto grosso, lo tagli in due, le fa una specie di abbraccio e poi lo scorci e monta al secchio, come si fa con le diamo. Sì, ma non c'è bisogno di scocciarlo, basta metterlo dentro e poi incastrarlo e metterli un po' di pulitire nel spasso, di modo che non fletta più, che non si spacchi più. No, l'antenna deve flettere, è costruita per flettere. Se tu la blocchi allora si spezza sul serio, perché tutto il carico dell'antenna non viene distribuito ma viene concentrato sulla parte più rigida. Ma un rinforzo ci vuole, se è spaccata ci vuole un rinforzo, bisogna rinforzarla dove c'è la spaccatura e mettermi un po' di pulitina nel spasso e poi rifarla come era prima. E adesso vediamo, dai. E finché non la tiri giù non puoi dire niente. Solo guardandola ti rendi conto di cosa è successo. Io mi ricordo che, anche tu sicuramente te lo ricordi, quella era una vera tempesta che è successa tanti anni fa, quella mi ha spezzato la Mantova 1, proprio fortunatamente io per sicurezza dentro un'antenna ci ho messo uno spago, no? Dalla cima fino a giù, all'interno, in modo da non creare problemi, uno spago che era isolato elettricamente. Fatto sta che proprio a metà antenna si è spezzata, però ne aveva anche ragione. Di lì veramente erano chilometri e chilometri, tu figurati che io ero a Porto Torres e con fuoristrada, tra l'altro e sembrava di essere dentro un frullatore, perché mi stavo muovendo la macchina da ferma, quindi quella era una specie di ciclone quasi, anzi forse era proprio un ciclone, non so se te lo ricordi, adesso sono passati tanti anni, però quello sì che ha fatto danni. 2008. Sì. sì, ma non ricordo come, Gianfra, io stavo andando a lavorare a Porto Torres e sorso di Vidriazzi, in quella strada lì mi è caduto un albero, ho fatto in tempo e tempo a sterzare con la macchina e ho preso un ramo con la ruota e mi ha buttato fuori la pattana. Poi fare le curve di Monterrasio, tutto pieno d'acqua, il cofano, fino al cofano arrivava l'acqua. Io ho risolto, sì, 2008, c'ha ragione Marco, io ho risolto fermandomi al centro di un piazzale dove non c'erano alberi, non c'erano pioni, mi ho beccato un po' di rami che stavano volando e sono stato lì finché non ha calato. Poco c'era da fare perché a muoversi, essendo una macchina anche alta all'epoca, mi avrebbe scaraventato a destra e a sinistra, magari anche capottato. L'ho messa di muso, figurati, di muso proprio a faccia al vento, e sono riuscito a cavarla, ma mi ricordo che ha fatto un dalghero, ha distrutto tutto quello che ha trovato, tutti quei gabbiotti li ha disintegrati, e tempi strani. Ci ha mangiato Marco? No, dai, ho sospeso, non voglio mangiare in fretta, eccetera. Sì, però il grosso è già fatto. Sì, quell'anno era terrificante, eppure, nonostante tutto, la boomerang del 92, che avevo piazzato nel 92, aveva lo stilo tutto integro. Invece si era rotto anni dopo il radiale alla base, perché il metallo era marcito. E il radiale era sul terrazzo stesso, però credo che fosse posteriore al 2008 la rottura, perché là il terrazzo lo tengono molto ma molto pulito qua, capito? E vabbè, vai Gianni. Ed era sul tetto con col palo da 6 metri la boomerang. Marco, ti ho accontentato e ho comprato la panna, cambiato discorso. Eia, mandami la foto della cioccolata con la panna già. Già, tu hai detto non so che antenna mettere, guarda, la più performante credo che sia roba tipo CD827, più grossa tipo Mantova, no, proprio bestiosa, pesa 6 kg, c'è un bedira di aria e imponente come antenna. Però credo di ricordare che qualcuno ha dato problemi, tipo lo stesso rotture per il vento, però sono passati anni e non sono sicuro di questa cosa. Forse era Antonello Di Orsi, però non sta più entrando, non posso chiedere conferma di questo. No, Antonello non ha mai avuto quell'antenna lì, no? Ha avuto sempre l'antenna tipo quella che c'hai tu, ha avuto, che pare, antenna così leggere. Sì, ricordo una Energy mezz'onda ha avuto, no? E ha avuto problemi alla quella lamella che c'è nella bobina, credo, o interruzione di qualche filo interno, no? Di qualche proprio il conduttore centrale, credo. Però ricordo anche un'antenna grossa, e perciò lui demoralizzato ha abbandonato le verticali e si è messo un'antenna a V per la 27, fatta da una ditta oscura che io non conoscevo, eppure dice che rende molto. Nei DX dice ha fatto un bel DX, è meno rumorosa della verticale, la marca non me la ricordo. Vai Gianfra. Con la V inizia, già me lo ricordo io, sì, non l'aveva detto, Virtel, una cosa vera. Da vedere, sì, una ditta italiana, dice comunque materiale di generose dimensioni, spessori buoni, ed è AV monobanda proprio per la 27, non è nemmeno per i 10 metri. Lui è rimasto entusiasta, io non ci credevo molto, perché giustamente è direttiva quella. Poi vabbè, essendo AV magari una via di mezzo tra verticale e orizzontale, ma non lo saprei, Gianfra. Non so il modello. Sono cose che capitano. A volte su quelle retroresine, ad esempio, le dà più fastidio il sole che il vento, perché le prende quella forma di come si dice, non corrosione, di sembra che si marcisca, dai, oppure entra acqua. Che ad esempio ne ho una che si era spezzata di una 7000, bella, mi ha accompagnato per tanti anni, fedele, erano le prime, super robusta, e si è spezzata a metà, e purtroppo perché la vettorizzazione è facilissima tra l'altro da riparare. Quindi l'avevo riparata, come ti avevo detto, mettendoci dei pezzi di tubo, era tornata nuova. Però poi aprendola ho visto che tra umidità e condensa, perché a volte si tappa il buchettino di sfiato, no? Non c'è la piantena, se l'ha mangiata la corrosione, essendo di rame, di ottone, se l'ha mangiucchiata. Infatti Luca ci mette tutto il vulcanizzante attorno per proteggerla. La Luca Master è fatta così, quella che fa Luca è tutta quanta volta di vulcanizzante. Ma non basta, ci vuole lo sfiato. Tu pensa che io ho i tubi sotto terra, anche d'estate, quando tolgo qualche cavo eccetera, sono bagnati perché i tubi sono pieni d'acqua. E si riempiono in acqua non perché entri acqua da fuori, perché sono sigillati, entra acqua perché la condensa. Adesso ad esempio noi abbiamo poi in campagna, figurati, un umido pazzesco, ma a quest'ora fuori la macchina è trisciatriccia già, come se avesse piovuto. E quindi la stessa cosa capita all'interno dei tubi per fenomeni di scambio termico, e quindi si crea questa condensa che goccia su goccia ti fa un lago. E di lì, se non è una cosa che c'è qualche sfogo in discesa, non asciuga. E ci spezziamo noi. Poi, ci sono molte antenne più grosse, direttive, questo e quell'altro, quindi si possono rompere tutti. Non è questione del materiale, è questione del momento magari di dove ti trovi, eccetera, eccetera. Io proprio solo davanti al mare, io vedo le barche, vedo tutto. Volevo dire già, sì, che è successo a varie persone della rottura della Grand Master, ma se vi ricordate anche quella famosa antenna americana che doveva essere a detta loro eterna, la Solar con i Max 2000, a più di una persona gli si è rotta, caspita si è rotta, ma non antenne vecchie, antenne messe anche da poco, è bastato un vento forte tipo, che ne so, cosa c'è a Trieste, tipo la Bora Tristina e le ha spaccate, retroresina o no, gira resistono più quelle in alluminio, boh, vai Gianfra. Non ti credere perché l'alluminio oltre qual tanto poi spezza, per quanto sia buono, anche la Mantova 1, che io ci avrò dopo un po', che è iniziato con la corrosione lenta però costante, ha voglia che si spezza, poi si incolla e ovviamente è da mettere grasso, però quando si incolla ci butti via l'antenna. Io quella che avevo l'ho tolta a pezzi perché non c'era verso di svitarla, forse col fuoco magari, scaldandola, ma poi ti rimane in mano se fosse più distante. Quindi anche l'alluminio non è che sia... Le uniche che reggono sono quelle navali, che non so se hai visto come sono fatte. Quelle sono in vetro resinati, però sono piene, cioè sono proprio delle fruste di vetro resina, il conduttore è dentro. Però quelle lì sono assolutamente ermetiche, no, neanche a balla quelle le fa niente al vento, sono proprio progettate per venti fortissimi e soprattutto per ondeggiare parecchio, perché essendo in mare deve essere di alta qualità. E infatti guardate il prezzo quanto costano, per carità. Ma quale hai detto Gianfra? Quest'ultima di cui mi stai parlando, qual è? Quella lì, la IMAX 2000? No, ho detto di guardarti le antenne marine, sia quelle HF sia quelle VHF. Se non sono d'acciaio inox, sono di vetroresina, la vetroresina è piena. Sono antenne che non si possono neanche aprire, capito? A volte esce addirittura il cavo là dentro. Quindi figurati, non c'hanno neanche il PL lì attaccato all'antenna, è proprio un cavo diretto che esce. Poi se lo vuoi più lungo ci metti un barilotto e lo sigilli. Buonasera. Beh, Claudius. Buonasera. Poi io adesso sto rientrando, vado a prendere la figlia al bar, l'ha chiuso adesso. E noi, chi c'è? Parlando di antenne, Claudio. Aspetta, mi sovveniva anche un'altra antenna, porca miseria, americana, se la fanno pagare col sangue, costa roba di 300 euro in Italia ed è una volgare di 5 ottavi. almeno quanto ne so io, la chiamano squalo, no aspetta, com'era? Un'antenna americana, comunque boh, questi sono matti, tipo 250 euro una 5 ottavi. Comunque il nome ha a che fare con lo squalo, non mi ricordo quale, dai, poi me lo ricorderò, vai Gianni. Ciao Claudio. Boh, non lo so che antenna sia, però adesso vado a dare uno sguardo. Ma domani la scendo, poi vediamo, se c'è meno tempo la scendiamo con Luca. Cosa stai dicendo? L'antenna tua? E allora? Forza un buon rinforzo, se no al prossimo momento la vette vaginale hai su te. Marco, sarà squalo, hai detto? Sarà squalaus. Guarda, hai il nome di un tipo di squalo, tipo Marco, squalo Marco, tipo Marco 3000, una cosa del genere, Marco 4000. Però, caspita, alla fine è come un amanto, fammi. Però è americana, 5 ottavi sempre con i radiali, te la fanno pagare mi pare 250 o 300 euro in Italia più la spedizione, questi sono matti, cioè manco fosse placcata oro. Adesso controllo, comunque dovrebbe essere quella, il modello Marco, Marco 3000. Claudio, ciao, buonasera, ascolta, ma eri fuori interrogativo, perché se eri fuori con me la situazione, c'è freddo per caso? Guarda, io sono uscito da Giubbotto, sì pesante, ma non c'è il freddo che c'era ieri. La mattina c'era freddo, quando sono andato al bar da mia figlia, insieme a lei, dovevo sfruttare un frigo, minchia, alle 7, ma un quarto c'era un freddo cane, mi sembra c'erano 6 gradi, 8 gradi. Adesso no, non c'è freddo comunque. No, perché è arrivata quest'ora, ce n'è da, insomma, mai capito, no? Certo, stando fermo, mi sa che non vedo neanche il termometro. No, lo vedo il termometro. Qua ci sono 16 gradi, già lo credo che c'è freddo. Qua c'è 23, qui c'è caldo dentro casa. Fuori bocciano 12 gradi, 10 gradi, non so. Non ho guardato la macchina, sono entrato adesso. Marco, l'amanto va e non la imita nessuno, a tutti i dini. Tu puoi comprare qualsiasi tipo di antenna, l'amanto va e manto va. Lascia perdere. Ok, la famiglia è dritta come l'uccello quando è dritto, capito? La dritta poi. Adesso è a 52 metri di altezza, fatti un conto. Quindi, lascia perdere, non c'è un'antenna come quella, per come è costruita, per come tira il vento, manco si sposta. Va bene, parlate di antenne, parlate di tutto. L'importante è che non parlate di altre cose, porcacciola. Quello è Marco, sempre di quelle cose può parlare. Ehi, l'ho trovata, Allora, Marco 5000 CB antenna, praticamente 4 radiali, c'è una spirale alla base tipo Mantova, c'è alla fine, però prezzi esorbitanti, prezzi esorbitanti. Non... chissà perché, comunque Claudio, conta che la Sigma però non c'è più, la Sigma Italia. E dove la trovi una Mantova nuova? Non la trovi più, a meno che non lo compri da quelli inglesi che le hanno comprate in Italia e se le rivendono però a 200 euro se non sterline. Guarda, io ho comprato la Mantova 1 perché c'era la Mantova 5, ho comprato la Mantova 1 esattamente 3 anni, cioè 3 anni fa, ok, l'ho comprata a Mantova e ci sono ancora negozi che hanno residui di magazzino, capito? Quindi la si trova, non ti preoccupare, la si trova, io già la trovo, se mi serve già la trovo, poi mi telefonate e poi ti ballate, la si trova, non ti preoccupare, io l'ho comprata nuova, non l'ho portata fino a casa perché me l'ha ritirata un autotrasportatore che faceva quella zona, adesso in pensione non lo so più. Però già ne abbiamo amici che guidano l'articolato, non c'è problema. Sì, adesso faccio faccio girare. Allora, trovata, ce l'aveva FLQ Elettronica in Italia, Marco Alfa V5000A. Praticamente sì, tipo stesse caratteristiche di Mantova, 300 euro, cioè prezzo in Italia 300 euro più la spedizione ovviamente. Gli americani sono matti, capito? Sono matti. Cioè ti vendono, non dico cacca, ma te la vendono come se fosse oro, come se la Sigma non avesse fatto buone antenne. Sigma con la Mantova oppure la Firenze 2, cioè. Posso già dirti, io non cambierò mai a corpo andare in capo al mondo, ma sempre quella compra, non ti preoccupare che la trovo. Avanti Gianni. Aspetta un secondo che sto guardando le antenne, Claudio. Via, guarda. Poi mi allontano un attimo, che un altro certo. Campocane è già uscito, ci sentiamo tra un pochino. Vai Gianfranco. La vecchiaia Calogna. Ero convinto di aver acceso il coso, era quello più caldo, la quale già era accesa, solo che era portata ancora sulle temperature estive, quindi stava tirando fuori la fredda. Oh, iaia, caro Claudio, l'età si fa sentire. Eccomi. Eia, sì, adesso vabbè, qua non dice molto di più, però prezzi folli. E d'altronde antenne grosse cosa c'è rimasto di italiano? La Eco Antenne non esiste più, la Sirtel mi pare lo stesso non esiste più. C'è rimasta la Sirio e i modelli ammiragli sono quelli, tipo fa quella con l'ampione con la bobina dentro, il lampione come lo chiamo io, no? Poi c'è la 827 alias Blizzard, la Blizzard sarebbe la 827 e ti danno già quella gabbietta, quella specie di anello che ti tiene i radiali, può che sia antifischio, anticornacchia, non lo so cosa serva quella gabbietta. E se no la LEM credo che faccia comunque una Super 16, qualcosa di equivalente alla Mantova, tuttora dovrebbe farlo. Però non ho più il catalogo sotto mano. Vai Gianfra. No, io ero un po' allontanato di qualche metro perché non riesco a capire cosa sta uscendo, se aria fredda o aria calda da fare. Porca miseria. Io non so perché non mettono le istruzioni belle e grandi in questi impianti di telecomando. Però poi telecomando, vabbè, come l'ho detto, tu già c'hai il fuoco per scaldare, Marco? No, ancora no, oggi sono più coperto però. Ho una camicia, quella è un po', vabbè, mamma le chiama flanella, un po' felpattine, non sottile però, E poi una specie di... una felpa bellina con la zip davanti. No, e poi sono ancora in calore perché prima di mangiare ho buttato la mondezza, quindi mi sono riscaldato un po', mangiando lo stesso mi vengono le caldane, quindi sono ancora tipo alto forno, poi mi verrà il freddo a stare fermo. Allora, ho trovato il sito Lemma Antenne, vediamo cosa produce di 5 ottavi, sempre che non si sia però imbastardita come materiali la Lemma, perché alcuni prodotti già li ha peggiorati rispetto a una volta, cioè stanno andando un po' a risicare sui materiali. Super Lemma 5 ottavi, io ho visto quella bellissima. Ah già, ma funziona l'antenna? Sì che funziona, non c'è né stazionale né nulla. Ah ecco, sono curicata, piegata. Ma piegata come? Mezzo quasi in terra, come? Oh, è presente un'antenna, una Mantova quando si storta col vento, così è. Non si è spezzata, no? Non lo so, bisogna aprirla per vederla, bisogna scenderla giù, aprirla. Non so, magari si può essere mollato anche qualche cosa, cosa ne so, bisogna scendere, bisogna svitare il piede, scendere l'antenna giù, togliere tutta la nastratura che c'è attorno e guardare, magari è stato entrato troppo poco il radiale, l'elemento è stato entrato troppo poco e vuole entrato fin dentro e magari è troppo in cima. Non si è spaccato, dove, siccome c'è lo spacco, no? Quando tu metti la pancetta c'è lo spacco, no? Andare, dai, ciao Marco, scusa, sono entrato così come si dice, contro piede, là, riprendi. Allora Gianni, c'è una misura da rispettare, cosa devi nettare? Più di qua non lo puoi entrare, dovrebbe combaciare poi col cavo che c'è dentro per rimanere in tira. Non deve rimanere in tira il cavo, no, non è come dici tu, il cavo deve rimanere morbido, non in tira, perché poi quando flette te lo strappa se è in tira. Comunque quella è spezzata nella giuntura, te lo dico io, è attratta mantenendo il cavo che c'è dentro, se ti si stacca il cavo che c'è dentro è un bel casino. E vabbè, adesso vediamo, se si può aggiustare si aggiusta, se no me la prendo nuova. Torna uguale a quella? No. No, quella no. Se si può aggiustare, aggiusto questa. A cazzo ce l'ho 10 mesi, ce l'ho, almeno un anno. Certo che si potrà aggiustare sicuramente. Bisogna modificare il tubo e farglielo più robusto, perché il problema di quell'antenna è quello lì. Capito? Comunque, sicuramente è nella spaccatura, nella giuntura, come è successo a Sandro. E siccome è fascettato e l'attratto, è chiaro che sta tenendo, però lì che si è spaccato. Speriamo di no, meglio così, che sia qualcosa che si è mollato, ma c'è poco da mollarsi, non è che è venuto la bestia mia. Vabbè, scendetenela con Luca, volete un po', dai, io sono qua avanti, Marco, scusa. Io li metto un tubo e lo riempio di pulitina nel spasso, voglio vedere se si muove ancora. Stai attento cosa fai e cosa non fai. Il cavo dovrebbe essere, non lo so, boh, se si può fare, chiedi a Luca Flippa che lui le costruisce con l'antenna, quindi sa come va fatta, non lo so, io non me ne intendo, non mi voglio mettere in mezzo, non metto lingua, vai Marco. Cappa, sì, già, stavo guardando la Super Lem, hai ragione, esiste sempre, la vendono tuttora, da HSP Shop, che conosco poco, è 149 euro, però sembra il clone della Mantova 1. Poi i materiali non so se quanto siano buoni, però, perché sai, sarà produzione recente. Claudio, una domanda, ma nel 2008, quando è venuta quella terrificante tromba d'aria, a te, alla Mantova, danno te ne aveva fatto, tu che sei in alto? Nel modo più assoluto, non manco mossa sia da dov'era, e ti dico che la qualificazione era molto, ma molto più debole di come è adesso. Adesso c'è Luca, l'ha visto, c'è il piantone da 2,5 pollici, a finire a 1 pollice, figurati, lì c'erano le direttive, con i tirafondi in acciaio inossidabile che entrano 15 cm dentro il muro, fate il conto, quindi manco si è mossa, nulla, manco le direttive, niente. Nulla, perché ce l'avevo già, le direttive erano più piccole di queste, ma c'erano, non si è mosso niente. Che culo che c'hai? A Gianfranco gli aveva rotto addirittura la Mantova, così è Gianfranco? Sì, l'ha spezzata a metà, l'ha presa in pieno, mentre le altre non subito danno. Stavo guardando questa, l'Energy 5 ottavi della CTE, costa anche poco, 75 euro, alta 6,50 m, in alluminio. Poi non so che tipo di radiale abbia, ma la CTE non è che faccia roba molto, chissà se va a farle pure quest'antenna, È quella che c'è a Marco, quella che sta usando Marco, quella che stai seduto. È di plastica. E sai cos'è già Gianfranco? È bello che è leggera ed è più sottile della Mantova, quindi se vogliamo è meno robusta essendo più sottile, però offre anche meno resistenza al vento. Allora, i radiali sono 3 radiali in alluminio vuoto, forato, da 1,30 m, lunghi 1,30 m. Però stamattina, tornando con la spesa in macchina, ho sbirciato, l'antenna c'è ancora, forse ci sono ancora tutti i radiali, mi sembra che ci siano tutti. Devo guardare di giorno, però ormai è buio. Vai Gianni. Oh, qua parla alluminio anticorrosione, tutta. Sì. Le raffiche del vento ieri, cosa hai registrato tu? Dimmi cosa hai registrato tu, poi ti dico cosa ho registrato io. La misura non te lo so dire, so solo che non era così forte come è capitato altre volte, stavo dicendo infatti che l'aeroporto era aperto e in giro c'era anche l'elicottero, quindi ci sono stati venti in cui l'aeroporto proprio l'hanno chiuso, un paio d'ore se ben ti ricordi. Quindi questo sì, era fastidioso, anche molto freddo, però non aveva una potenza tale da fare danni come gli altri venti che abbiamo visto quest'anno anche. Quindi insomma, le antenne sì, le piegava anche parecchio, però non ho registrato neanche, insomma, non ha dato alcun problema, ecco, sotto quel profilo. C'è stato di molto, molto, molto peggio. No, volevo sapere se avevi visto lo strumento. Io li ho registrate, era intorno ai 55-60 km all'ora, le fiche più alte, capito? Quindi non era assolutamente... Marco, io qua abito dal 1985, ok, nel 85 ci hanno consegnato tutto il complesso. Io sono arrivato qua nel, sì, 85, fine 85, inizio 85 ci hanno consegnato il complesso. Io mi sono posizionato fine 85 e ti posso dire che dall'85 a oggi, 2020, io non ho mai subito un danno a un'antenna, mai. Mai. A rotore, a due rotori sì, uno piccolo, due piccoli, quello grande ultimamente no. E basta, sgranato due rotori, ma è normale quello. Ma proprio danni alle antenne assolutamente mai, mai e poi mai. Ok? Perché ho sempre avuto verticali tipo Mantova, anzi, bugia mia, verticali Mantova, ho iniziato con la prima Mantova 1, poi ho preso la Mantova 5, poi la Mantova Turbo, poi ho rimesso nuovamente la Mantova 5 e poi ho rimesso nuovamente la Mantova 1, ma per questioni di usura e basta, solo questioni di usura, mai ne è caduta, mai e poi mai. Che culo che c'hai! Gianni, questa deve essere fattura, te l'ho detto, e i microfoni che fischiano, e quell'apparecchio che non andava, e l'antenna che si rompe, questo è fatturami, toccati le balle. Vuoi sapere le altre cose? Sono andato a cucinare e mi è finita la bombola, vado nella cucina che c'ho fuori il terrazzo, che la tengo sempre di scorta per me, e mi è finita anche lì. Ho fatto il tempo in tempo a cucinare una fettina e poi è finita la bombola, ho dovuto comprare due bombole stasera, cazzo. €50 sono in bombole. Lo so, come che si dice, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. È una rottura di balle quando succede così. Bene, comunque già, guardati le antenne Sirio, di quelle grosse ne fa almeno due. Sia quella con lampioncino, dove vedi la bobina dentro di rame, però a me quel lampioncino in plastica non mi piace. Pure la 2016, se non la Super Lem, però occhio che la Lem sta facendo materiali un po' terra a terra me negli ultimi tempi. Vai Claudio. Sì, grazie a Mike, io vado a portare il cane che è qua a mezzo piede per uscire. Beh, Gianfranco, riprendi, ci sentiamo dopo. Beh, un mio amico di Alghero e poi vado Marco per dirlo anche a Gianni. Lo stesso problema. Mi ha mandato un messaggio adesso che sto ascoltando. Ok, stesso problema. Lui master 6 mesi d'antenna, 7 mesi d'antenna, abita lui lì alla pietraia, crepata, distrutta, spezzata netto in due, proprio dove c'è il primo aggancio, la prima fascetta, spezzata in due, è incazzato nero. Che le fa causa? Chi è questo? No, non te lo posso dire, ma è di Rondillo, non te lo posso dire. Ha detto che non è di causa, gli tu hai la causa bessa, a chi la bessa intanto? L'hai comprata e te la attacca il culo adesso. Di Riola c'è credo un anno di garanzia, ma non so se c'è anche per gli eventi meteorologici. Non so, è incazzato nero. Perché io lo so chi è, ed è molto signoro, qualificazione da 1000, è una notte, peggio della mia, tubi buoni, ben ancorata, la spezzata in due, il mercato è di quando è di ieri, avanti ieri, il mercato poi è girato all'imbeccio e vera gabbada, infatti non è capire perché è non prende gli anni fatti, ne siamo abiti anche voi, no? Vai Marco. Ma spero che non sia il CB radioamatore, quello che conosco anch'io. E purtroppo capitano questi casini meteorologici, capitano. Boh, vabbè, l'antenna perfetta non esiste, vabbè, a parte le mantova, a trovarle però, porca miseria. E comunque anche nelle come si chiama l'ultima, quella turbo, come si chiama? Vabbè, l'ultima mantova, negli ultimi tempi hanno riciclato anche lì i suoi materiali e hanno cominciato a lavorare in economia. E se no si può ancora a turbo 2001 in un'altra capissuglia. Bravo Gianni, e se no poi un'altra, come si dice, una mantova senza radiare, la funziona la testa. E Marco, sono uguale la mantova a turbo, la struttura è quella, il verticale è quello, è strutturato così, stesso diametro, tutto, capito? Cambia solo la piastra dei radiali, boh. È il materiale che hanno fatto buono, non c'è niente da fare. Assolutamente. L'ultima serie, quella che c'era Gianni e quella che ho io, addirittura nelle